Sconvocati di Carlo Genta. E quando in velocità lo vince De Marcos, palla dentro, con destro il vantaggio dell'Athletic Bilbao, la firma di Muniain. La nostra squadra è molto concentrata, siamo, come sono io, convinto che possiamo andare avanti. La qualità c'è, è una questione di trovare il momento giusto per fare la giocata giusta. Gargano per Hamsik, morbido le tocco, Higuain, grande aggancio, può inventare lui qualcosa, Pipita dovrebbe calciare, lo prova! Noi non pensiamo di non passare il turno, pensiamo di passare, per questo stiamo qua. Sappiamo che è una partita difficilissima per noi, anche per loro, e solo pensiamo in passare il turno e giocare la Champions. L'atmosfera è bella, ma i bomboni non mancano mai. Ciao a tutti, Claudio Schiattone in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Cosa fa Napoli stasera, secondo voi? 800240024. Non solo il Napoli, ma l'intero calcio italiano si giocano tantissimo. È inutile nasconderlo, non è solo una questione di soldi, ma di capire forse quanto profondo è il crepaccio in cui siamo piombati. La sensazione è che con il passare delle ore aumenti una strana paura. Antonio Giordano, inviato del Corriere dello Sport a Bilbao. Ciao, grazie. Grazie a voi, buongiorno da un taxi di Bilbao. Da un taxi di Bilbao. Avete beccato in taxi, sono anche in compagnia di colleghi, c'è quasi tutta la stampa italiana, sono Corazzi di Repubblica e Ricci della Gazzetta, quindi però. Potete fare un forum, ecco. Sì, Filippo Maria Ricci, nostro grande abituale amico, come tu sai. Fatemi un pronostico tutti e tre. Dai. Vuoi un pronostico da tutti e tre? Ma sì, un pronostico tutti e tre. Ma vuoi che te li passi? No, chiediglielo tu. Ricci, che fa il Napoli? Quanto? Pronto? Ricci dice 2-2. La Spagna! 2-2 ci stiamo, Tu cosa dici? Azzi dice 2-1. Eh? Ah, 1-1, Azzi ha detto 1-1. 1-1, e beh, 1-1 non vale. No, per portare supplementari. Non mi sembra una soluzione ragionevole per i giornalisti. No, non mi sembra una soluzione ideale neanche per il Napoli e per i napoletani. Secondo te, Antonio? Vabbè, io esagero. 1-3. Da dove arriva questa fiducia? 8 giorni in più di condizione atletica nelle gambe, l'ultima mezz'ora del Napoli e la paura dell'Atletico Bilbao dopo il pareggio del Napoli. La consistenza tattica di una squadra che non può aver dimenticato come si attacca. E deve aver imparato come si difende. È vero, prima ti sentivo, il crepaccio fa impressione, la paura sale. Però scusatemi, ma tra l'Atletico Bilbao e il Napoli stasera chi deve avere più paura? E lo so, Antonio, però anche tra l'Italia e Costa Rica, insomma, è inutile, ogni avversaria internazionale in questo momento ci rimanda a cupi pensieri sul crepaccio in cui siamo sprofondati. Ma sono d'accordo con te, riconosco però all'ultimo Napoli, a questo di Benedetto, la capacità di essere molto internazionale e quindi se ci smentisce ha bruciato un po' di tempo, però. Quindi ti sembra pronto il Napoli? A me sembra abbastanza pronto, deve uscire da una serie di equivoci. Spero che Benitez sia riuscito a trovare la soluzione giusta negli equilibri di una squadra che perlomeno per la prima ora della partita d'andata ha un po' barcollato. Molto probabilmente cambia, ma non cambia tantissimo. Ho il sospetto che giochi Britos a sinistra, avendo Mertens avanti, uno che spacca le partite, t'allunga la squadra e quindi mette in condizione di non avere un fluidificante di spinta ma di copertura. Sì, Mertens che mi sembra il giocatore più importante del Napoli in questo momento. Mertens mi sembra con Higuain sia il più importante certo, in questo momento. Certo. Certamente Higuain. Senti, ma a proposito di Higuain, se il Napoli esce che succede? Ma intanto va presa una città dal punto di vista letterale, psicologicamente è rimessa in piedi, perché lo strappo emotivo sarebbe sì, devastante. Voglio dire, al di là della facile retorica, cioè Napoli vive di calcio, poi certo, possiamo suonarcela e cantarcela come vogliamo, come vogliono gli altri, uh-huh, ma qui il calcio offre una dimensione della quotidianità all'interno di un pallone. E quindi, però, secondo me poi dopo ci sono una serie di cose che vanno rimesse in discussione, quindi perché uscire sarebbe veramente non tragico, perché è una parola che questo è chiaro. Senti, ma però Higuain potrebbe partire in caso di eliminazione? No, assolutamente no, non credo, non voglio credere. Però onestamente non vorrei neanche essere Higuain, nemmeno io, anche se da quelle parti al Samames, che è uno stadio molto difficile, con Atletico Bilbao, una squadra rognosa, insomma i numeri dicono che Higuain normalmente la mette, se la legge dei grandi numeri ha un valore, credo ce l'abbia, possiamo andarci a fare anche la pennichella pomeridiana. Sì, se il Napoli passa cosa succede? Se il Napoli passa succede che si ribalta il fronte dal punto di vista psicologico, e questa città, che vive anche di sensazioni umorali, può scoprire addirittura la possibilità di andarsela a giocare per lo scudetto, dare il valore che merita a questa squadra. E credo debba succedere, però, altro, cioè, se il Napoli passa, al netto di una pioggia d'euro che è quantificabile intorno ai 30-35 milioni di euro, insomma, un saltino di qualità nel mezzo e magari altrove va fatto, cioè sì, bisogna che lo staff tecnico, e in questo caso non mi riferisco a Benitez, ma a quelli che chiamano comunemente lo scouting, il direttore sportivo, si inventi qualcosa e vada a cercare un giocatore che sia da Napoli per la Champions e per combattersela su tre fronti, cioè Champions, campionato e Coppa Italia, che sì, poi c'è un altro aspetto. Sappiamo come, insomma, il Napoli l'anno scorso abbia dimostrato una vocazione più europea che italiana. Forse è un tratto distintivo delle squadre di Benitez. Secondo te qualcosa è cambiato da questo punto di vista? O è un Napoli così, con vocazione maggiormente europea, maggiormente internazionale? È un Napoli di grande respiro internazionale rispetto al Napoli del passato, ecco, non rispetto all'assoluto. Però è un Napoli che credo debba necessariamente anche crescere e cogliere l'importanza del campionato. Non distrarsi, non lasciarsi distrarre e sedurre dalla Champions, nel caso in cui ci sia la Champions. Non dovesse esserci la Champions, l'Europa League diventerebbe veramente, come dire, una sorta di fastidio per questo calcio italiano, che purtroppo non si rende conto che nel coefficiente UEFA entrano pure quelle partite lì. Sì, certamente. 800 24 00 24 per intervenire, ovviamente, in tutti i convocati. Antonio, ti chiedo ancora questo, mi spieghi, perché già da quest'estate, perché ci sono state manifestazioni di dissenso, perché in una parte della tifoseria serpeggia questo strano malumore? Adesso se l'ho chiesto anch'io, non sono riuscito a trovare delle risposte convincenti a me stesso, e ci sono delle contraddizioni che sono solari, perché non mi spiego neanche l'atteggiamento così severo nei confronti di Cavani, che pure ha dato in 3 anni 104 gol e, giova ricordarlo, una dimensione internazionale. Però è anche fastidioso accorgersi che il povero Insigne non può sbagliare una giocata e si ritrovi lo stadio con una parte dello stadio contro, che non può andare a cercare l'uno contro uno per provare un gol dalla distanza e già ascolti, perché se sbuffano in 50.000 fa rumore, se sbuffiamo io e te non se ne accorge nessuno. Questo è evidente, certo. Comunque questa partita ha un'enorme importanza per il Napoli, magari anche per mettere a tacere quel malumore serpeggiante in maniera inspiegabile in una parte della tifoseria. Sembra di essere al Real Madrid, Filippo Maria Ricci, che in realtà la conosce bene, insomma, è inspiegabile come sia possibile fischiare la squadra più forte del mondo in questo momento, impossibile spiegare perché questo Napoli non riesca a convincere i tifosi. Calcio a strani misteri, calcio a strani misteri. Ma vale un po' ovunque, credo valga un po' ovunque, e la dimostrazione è questa insofferenza anche del Santiago Bernabéu. Eppure hanno vinto la decima l'altro giorno. Sì, no, infatti, hanno vinto la decima l'altro giorno, hanno preso tutto quello che si poteva prendere sul mercato, hanno speso un'altra montagna di soldi. hanno venduto Di Maria, capito? Hanno venduto Di Maria, ma per... Non lo spiegare al tifoso che il bilancio poi, insomma, se no ce lo devono mettere i soci. Beh, ma sai, Di Maria nel Real Madrid che sta nascendo forse avrebbe rischiato anche di fare della panchina. L'hanno venduto per 75 milioni, secondo me non è stata una cattiva idea, non è stata una cattiva giocata. Assolutamente. Questa. Grazie Antonio, un abbraccio. Grazie. A tutti quanti. Un abbraccio a tutti quanti. Siamo scesi dal taxi, ma te li abbraccio. Grazie Antonio Giordano, inviato del Corriere dello Sport. 800 24 0024, numero verde, subito dopo il traffico cominciamo a parlare. Sì, sarà importante per loro, anche per noi, perché a me piace giocare sempre contro squadre che fanno bene, con il campo o lo stadio pieno di gente. Credo che è più bello, e soprattutto è più bello quando si vince. Convocati. Ho parlato dopo la partita con Lorenzo, e Lorenzo sa che lui come professionista deve concentrarsi in fare il suo lavoro, e per me è un giocatore importantissimo, un giocatore fondamentale per la nostra stagione, e lui deve essere preparato per queste cose. Credo che lo ha capito, mi sembra che non è un problema per la scelta di domani, non sarà un problema sì, l'hanno fischiato o non l'hanno fischiato. Sì, il clima intorno ai segni è molto difficile, ma insomma mi sembra un po' il refrain della storia relativa a Quagliarella. Molto difficile essere profeti in patria a Napoli, molto difficile giocare con quel tipo di pressione sulle spalle, poi ci sono mille componenti che magari noi non possiamo conoscere, non possiamo capire. Luca da Crema scrive: consoliamoci, noi milanisti almeno abbiamo ragioni per cui fischiare, non c'è dubbio se fischiano i tifosi del Real Madrid, peraltro con una vittoria interna come è stata quella dell'altra sera, i tifosi del Milan hanno tutti i diritti di manifestare il dissenso per una squadra che in questo momento non è né carne né pesce. Per cosa può correre il Milan in queste condizioni, insomma, non è chiarissimo. Alessandro, ci sta Bologna. Tutto anche il mucchio selvaggio? Ci sta anche il mucchio selvaggio. Alessandro Bologna, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Se posso, gente, volevo muovere le due piccoli appunti, uno più scherzoso, l'altro sì, un po' meno. Prego. Il primo, io ricordo l'anno scorso quando giocava la Juve in Champions e poi anche col Benfica, lei anche giustamente disse: siccome lo sport nazionale è la gufata, lei invitava vale gufare. Invece, ma... poi ieri però l'ho sentita dire: dobbiamo tifare tutti Napoli. Io invece sono coerente da gufo. No, ma fa benissimo, tra l'altro ci sono per interessi economici, lo so. Bravo, perché arriverebbe una bella paccata di milioni che ha l'aiuto. Una decina a testa per la Roma. Chi va più avanti. L'altra invece un po' più così. Ieri, quando dall'ultima telefonata ha chiamato uno che ha parlato della solita del patteggiamento di Conte, che poi lei invece ha detto giustamente che non c'è mai stato, eccetera. Lei ha ricordato giustamente che il patteggiamento poi nella giustizia sportiva è diverso da quello ordinario, sì, perché la giustizia sportiva condanna senza prove, quindi insomma una certa qualcosa di diverso, si trova anche messo senza potersi difendere, e invece ha citato giustamente invece il patteggiamento della giustizia ordinaria, e poi ha concluso felicitandosi per la nomina di Oriali a team manager. Oriali però è stato condannato dalla giustizia sportiva, ha patteggiato con l'ordinaria una condanna per falso e recitazione, quindi sinceramente non mi sembra una bella immagine, oltre a Tavecchi in persona. Solo queste cose. Sì, oltre a, ma insomma io valuto Oriali per quello che sa fare come uomo di campo, per il carisma che ha, eccetera. Se stiamo qui a Alessandro a fare tutti quanti i tifosi, è chiaro che ai milanisti, agli interisti, a tutti gli altri Conte non sta bene, perché è stato l'allenatore della Juventus, perché è stato il capitano della Juventus, perché è una bandiera della Juventus, allora non va bene. Se lei juventino dice no, Oriali non mi va bene, proviamo a valutare al di là del pregresso, delle condanne, di ciò che è stato e ciò che non è stato, delle sanzioni subite, delle sanzioni pagate, eccetera. Proviamo a guardare con fiducia a questo team della nazionale, perché secondo me, torno a ripetere, guardando esclusivamente il campo non era possibile combinare una squadra in maniera migliore. Conte commissario tecnico, Oriali nel ruolo che fu di Gigi Riva. L'altro giorno un ascoltatore lo ricordava, Gigi Riva che alla nazionale è mancato tantissimo, è inutile nasconderlo, quel ruolo è fondamentale, e Oriali, a me, al di là della giustizia, delle sentenze, delle sanzioni, a me Oriali sembra l'uomo adatto. Walter Trento, buongiorno. Buongiorno signor Genta, io telefono invece perché sono un ex tifoso del Milan. Ex tifoso del... ha dato le dimissioni. Ho dato le dimissioni con... sa cosa, sa che Totti oggi... sì. Poi parliamo della Roma, sa che Totti oggi ha fatto un fioretto? Sì? Sì. No, no, questo non lo sapevo. Un anno senza gelato per vincere lo scudetto. Ah beh... Guarda, noi possiamo starci anche 50, mi sembra, però al di là di questo, io penso che non so fino a che punto vogliono fare arrivare a vergognarsi di essere milanista, perché adesso lo dico prescindendo dal fatto che i problemi della vita sono altri, attenzione, sì, però voglio dire, non è possibile che si vada a prendere uno, adesso si vuol prendere uno che ha fatto 20 gol negli ultimi 4 anni, facendolo passare per quello che è, e vendere, sembra di ho sentito questa notizia, vendere Rami, che ci hanno messo non so se 6 mesi per prenderlo, e rivenderlo già adesso. Io non so quale sia la strategia. No, peraltro Walter, peraltro quello che io condivido quanto lei dice, quanto lei, insomma, prendere un giocatore che è chiaramente in fase calante, che da molti anni è sparito, che guadagna un sacco di soldi, a me non sembra una grandissima idea. Però lei sa come me che la politica del Milan in questo momento è la seguente: vendere tutto quello che è possibile, monetizzare quanto è possibile e andare a prendere dei giocatori che siano svincolati, non abbiano elevati costi di cartellino, pagandoli un sacco di soldi di ingaggio. A me sembra una politica abbastanza perdente questa. Quanto al resto, io credo che arriveranno un paio di giocatori al Milan, non credo che arriveranno quelle stelle necessarie per trasformare una squadra da, boh, fate voi, Badr, quanto vale il Milan? Che posizione vale in classifica? Sì. Ottavo posto. Ottavo posto. Facciamo anche sesto e chiudiamo la linea. Se tutto va bene, ottavo. Se tutto va bene, sesto. Se tutto va male, lottiamo forse per una salvezza tranquilla dopo. Anche può essere che per una salvezza tranquilla vada bene, ma può anche andare benissimo. Salvezza tranquilla, esageriamo, no, questo è ovviamente è un paradosso, però voglio dire, lo auguro soprattutto a Inzaghi, perché voglio dire, lui meriterebbe ben altro, come meritava Seedorf prima. Questi due stanno distruggendo quello che c'è da distruggere, che hanno costruito loro peraltro in 30 anni. Mi dispiace solo quello, hanno rotto un giocattolo e ci ha fatto divertire. Sì, ma quello che io dico, allora, io credo che i tifosi del Milan possono anche capire una politica di austerity, una politica però di austerity che deve essere proiettata a un certo tipo di futuro, quindi puoi investire sui giovani, puoi valorizzare i giovani del vivaio. Io credo che se ad un tifoso del Milan dicono, ok, per 3 stagioni non vinciamo nulla, però proviamo a costruire una squadra magari inserendo un pezzo alla volta giocatori giovani e di valore, senza andare a venderli la stagione dopo, magari a gennaio, dopo che hanno fatto un buon girone d'andata. Io credo che una politica di questo tipo per i tifosi del Milan sarebbe ampiamente condivisibile. Non credo che sarebbe maggiormente dispendiosa di quella che viene praticata attualmente per le casse della società. Di conseguenza io capisco il dissenso, magari anche le dimissioni di Walter da tifoso rossonero. Armando Napoli, salve, che facciamo stasera? Io sono contento che il signore tifoso della Juve, il Gobbino, cuffi contro il Napoli. Sì. Porta bene, sì. Ma io sono favorevole al tifo contro, io lo dico sì, subito. Sì, sì, quindi porta bene. Che i gobbi tifano contro il Napoli, o gufino contro il Napoli, meglio ancora. A noi napoletani porta bene. Sì. Senta... Poi volevo dare solo delle risposte diciamo, sul giornalista di prima riguardo Insigne e Cavani. Allora, riguardo Insigne, che prima del campionato voleva un adeguamento dello stipendio, sì, e praticamente non l'ha avuto, e ha avuto dei comportamenti non presentandosi, o meglio ancora non parlando nelle trasmissioni, Sì, Armando, ma perché c'è questo clima ostile nei confronti di Insigne? Perché non è questione dell'altro giorno, dell'adeguamento, eccetera. No, è una questione invece dell'adeguamento. Perché no, perché c'era anche l'anno scorso, Armando, c'era anche l'anno scorso questo clima ostile nei confronti di Insigne, ce lo ricordiamo bene. Ci sono stati degli screzi pesanti anche tra pubblici tra Insigne e la tifoseria napoletana. Perché? Io penso che una persona che paga un biglietto per vedere uno spettacolo, se lo spettacolo non è gradito, può criticare, sì, specialmente chi veste la maglietta e dice che è napoletano, ma non è del tutto napoletano, perché parliamo della provincia di Napoli, Caltamaggiore, Checco, vabbè, ma diciamo che è napoletano, e poi porta problemi intersocietari di avere un adeguamento già dall'anno scorso. E non è dato quello che dovresti dare tu da napoletano, e a 8 minuti, avere una partita a 8 minuti, poter segnare, è tutta un'altra partita dopo succede. Ho capito, ma gli errori si fanno. È la critica da fare. No, però io credo che... anche a Cavani, che praticamente ha sempre detto a noi tifosi napoletani che non era una questione di soldi. Ma è sempre una, Armando, è sempre, esatto, una questione di soldi, è inutile che ce la raccontiamo. E torno a ripetere, secondo me De Laurentiis ha fatto benissimo a vendere Cavani per quella cifra, perché quella è la politica giusta da fare per il calcio italiano in questo momento, per il Napoli. L'ha fatto con Lavezzi, l'ha fatto con Cavani, e secondo me sono state, lo sta facendo la Roma, tra poco ne parliamo, la Roma con Sabatini, che è un fuoriclasse assoluto, cosa sta facendo? Sta prendendo giocatori, li sta valorizzando, li sta cedendo, ne sta prendendo degli altri. È questa la politica corretta da fare. Resta il fatto che io questo dissenso, anche qui non credo sia una questione di soldi, questo dissenso nei confronti di Insigne non riesco a capirlo fino in fondo. Non posso dimenticare che un altro napoletano innamorato di quella maglia, Quagliarella, fu distrutto dall'esperienza napoletana. Però insomma, sono cose che da quelle parti, vivendo il calcio in maniera così viscerale, succedono. Armando è ancora lì? Sì. Mi dica ancora una cosa, prima di salutarla, c'è questa diatriba. Allora, i tifosi della Juventus non vedono di buon occhio Oriali, mi sembra un tema interessante. I tifosi delle altre squadre non sopportano Conte come CT della nazionale. Lei, da tifoso del Napoli, cosa dice? Io sono un tifoso di Napoli. Oggi come oggi, Conte doveva essere l'unico e solo allenatore che poteva allenare l'Italia. Sono d'accordo. Per cercare di prendere tutti quei punti a livello internazionale, sì, ma al di là che abbiamo perso con tanti allenatori. Guardi, al di là dei punti, in questo momento è la faccia migliore del calcio italiano dal punto di vista degli allenatori. L'allenatore vincente, quello che ha vinto 3 scudetti, è quello che ha un credito da spendere. Quindi credo che, l'ho detto molte volte, credo che sia stata certamente la soluzione migliore per la nazione italiana. Borsa, poi torniamo. 800 24 00 24, numero verde. La nostra squadra è molto concentrata e siamo, come ho detto, come sono io, convinto che possiamo andare avanti, e loro penso che hanno fiducia lo stesso, perché la qualità c'è, è una questione di trovare il momento giusto per fare la giocata giusta. Convocati. A che cosa saresti disposto a rinunciare per lo scudetto? Rinunciare dipende quello che devo rinunciare. Scegli tu il sacrificio, è tipo un fioretto, lo devo dire? Certo. La Nutella, un gelato per un anno, tanta roba? È difficile. Poi dipende uno dall'anno. Così Francesco Totti questa mattina a Roma Radio, nuova emittente ufficiale del club giallorosso. Roberto Renga, buongiorno. Buongiorno a tutti, anche a Totti al giudizio gelato. Totti rinuncia, beh, non mi sembra tantissima roba, dai. Beh, no, però dipende dal gelato, perché io ho trovato recentemente un gelato al cioccolato artigianale e fatico a rinunciarci. Sì, eh? Sì, eh? Sì, ma sì, devo anche dire che non è facile vincere il campionato, per cui... Certo, sono difficilissime entrambe le cose. Intanto la Roma che ha un fuoriclasse assoluto dietro la scrivania e che è Sabatini, e lo dico tutte le volte, ha fatto un eccellente mercato, cessione di Benatia compresa, perché un difensore per quei soldi lo devi vendere. Prima parlavo con un tifoso napoletano, insomma anche la politica del Napoli, cessione di Lavezzi, di Cavani, è quella, è l'unica praticabile per le squadre italiane in questo momento, quindi resta un eccellente mercato quello della Roma. Ho sotto il naso le plusvalenze realizzate da da Sabatini, le conosci anche tu, no? Con la Mela, Marchinhos e Benazia. Quindi, no, se... no, le conosco, conosco anche quelle precedenti del primo anno e del secondo anno, quindi faccio sempre una somma io, perché nel calcio le azzecchi e le sbagli, è normale, cioè puoi sbagliare Chiaer e puoi azzeccare Benazia. Ci sta, nel calcio ci sta tutto. Certo che è strano vedere però che una squadra cambia in continuazione. Io resto della mia idea che le grandi squadre nascono prendendo un grande giocatore o due all'anno e lasciando inalterata la base. È vero che il caso Benazia è particolarissimo, perché è lui che si è messo a litigare, per carità. Sì, è lui che si è messo a litigare, beh, chiaro, questione di soldi, ma d'altra parte è una costante. Leggevo prima di Maria che ha detto no, io al Real non me ne volevo andare, cioè, non è andato esattamente a giocare nella provincia del calcio, è finito allo United, che peraltro insomma, parlavamo del gatto nero che ha attraversato il Camp Nou l'altro giorno. Lo United ha preso 4 fischi, perso 4-0 in Coppa di Lega con il Milton Keynes, squadra di terza serie. Sì. Senti, tornando alla Roma, tu dicevi sì, le grandi squadre si costruiscono innestando un grande giocatore per stagione. Come collochi in questa prospettiva i Turbe? Il Turbe in prospettiva è un ottimo giocatore. A me piaceva moltissimo 3 anni fa, lo seguivo quando giocava in Sud America, mi facevo porca miseria, speriamo che lo compri qualcuno in Italia. Poi dopo è andato al Porto e non è andato bene, è ritornato a River e non è andato bene, è venuto a Verona dove Soglian ha avuto una grande intuizione e ha fatto molto bene. Adesso bisogna vedere se lui è timido, ossia la grande piazza lo intimidisce, oppure gli crea problemi tattici, oppure è in fase di maturazione. Io penso che manca la seconda opzione, che sia in fase di maturazione e che quindi sia un buon giocatore, ottimo giocatore, non un campione. Campione è una parola grande. È una parola grande, però età e talento giocano per lui. Sì, sì, certo. Devo dire che può anche fare scopa con Gervinho dalla parte opposta, cioè la Roma può avere 2 esterni che possono andare al gol e far fare gol. Sì. Secondo te quanto dista la Juventus dalla Roma in questo momento? Stavo leggendo anche le dichiarazioni di oggi di Rudy Garcia, che insomma dice siamo pronti, siamo carichi, il campionato si vince adesso. Io credo che l'avvio del campionato per la Roma sarà estremamente importante, concordo con il suo allenatore. Io penso che sia fondamentale addirittura la partita con la Fiorentina, perché in questo momento la Roma, ma non solo la Roma, che Napoli e la Juventus, mi sembra che le prime 3 siano regredite rispetto all'anno scorso, non migliorate, ma per la Roma diventa fondamentale, perché se non dovesse vincere la partita contro la Fiorentina, perché ricordiamo che la Roma gioca in casa, la Roma è arrivata seconda e la Fiorentina quarta, la Fiorentina ha sempre perso con la Roma, questi sono i precedenti. Se la Roma non dovesse vincere, i punti interrogativi che sono legati adesso a Maicon, a Kohl, al sostituto di Benassia e ad altri giocatori diventerebbero punti esclamativi, e questo creerebbe degli ovvi problemi per la stagione della Roma. Sì, altro gran macro interrogativo, la Champions League peserà, cioè sappiamo bene come la Roma l'anno scorso si è riuscita a fare la stagione che ha fatto senza le coppe. È chiaro che la Champions League qualcosa cambierà. Secondo te quanto può incidere? Può incidere parecchio, perché già l'anno scorso la Roma ha avuto un finale balbettante, ti ricorderai, no? Che si era avvicinata alla Juventus e poi è arrivata a 17 punti e non aveva le coppe, perché anche in Coppa Italia poi è stata eliminata. Quest'anno sì, io mi auguro fortemente per la Roma che Garcia abbia modificato la preparazione, però è riuscito a fare al momento la preparazione che aveva in testa, perché ricordiamoci che ci sono sempre queste tournée negli Stati Uniti, chi negli Stati Uniti e chi in Indonesia, che ti impediscono di lavorare. Ma è giusto così, però Roberto, è giusto così, nel calcio di adesso è giusto così, perché devi... devi vendere il prodotto. Spesso la Roma non è che ha venduto molto il prodotto, perché poi in realtà ha preso 4 milioni, no? Per andare in tournée, ma niente, ne ha vendute poche perché nessuno lo conosce. Ti ricordi che per Inter e Roma lo stadio era vuoto. Non è che noi in questo momento abbiamo molto da vendere, veramente. Io prima cercherei di vincere. Sì. Ti chiedo ancora questo, pensi che i tifosi della Roma come quelli della Juventus guferanno il Napoli stasera per una questione di bieco denaro o per altri motivi? Sì, temo di sì perché in Italia non hanno capito che in realtà le vittorie degli italiani sarebbero fondamentali per il rilancio nostro, sì, come le vittorie della nazionale, sì, perché ormai ci rendiamo conto, almeno noi che lo facciamo di professione, che ci stiamo occupando non più di un grande campionato, ma del campionato dell'orticello di guerra di casa, insomma. Per cui lo dico con profonda tristezza proprio. Conte Oriali, copia giusta, copia corretta. Un interista, no? Come? Uno juventino e un interista. Sì. E quindi due rappresentanti di due squadre storicamente nemiche, avversarie, diciamo, non nemiche, per carità, avversarie. Ma entrambi hanno fatto molto bene. Oriali non c'è dubbio che abbia fatto bene, poi è rimasto travolto dalle vicissitudini interiste. Conte viene da 3 scudetti consecutivi. Non posso che dire che si tratta di due grandi professionisti. Non so nemmeno se sono amici, però sono due ex centrocampisti. Non si conoscono. Non sono amici. Forse meglio così. A forza addirittura meglio così. Ma per carità. Grazie Roberto. Un abbraccio, buon lavoro. Grazie a Roberto Renga, 800240024 e Fabio che scrive: bravo Totti, per un bambino il gelato è un sacrificio notevole. Filippo, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, dottor Carlo. Dica. Ma io, al contrario di Walter, tifoso milanista che abbiamo sentito prima, sono un milanista ottimista. Addirittura ottimista, dove l'ha trovato l'ottimismo? Dove lo trova? No, era ovviamente una provocazione. Ah, ecco. No, ottimista per Inzaghi, perché ho visto giocare il Milan in modo più umile, provinciale, ed è la nostra dimensione in questo momento. E più purtroppo pessimista per la dirigenza, perché di progetto hanno niente, insomma, cose già dette. E mi dispiace perché dal punto di vista giovanile il Milan è un buon settore. Io ho dei ragazzi che giocano a calcio, sì, ho visto spesso e volentieri giocare, diciamo, il Milan giovanile, sì, in modo particolare gli allievi 98 sono forse tra i più forti in Italia. Beh, ma d'altra parte, Filippo, il Milan, questo bisogna riconoscerlo e bisogna ricordarlo, il Milan è una delle poche, dei pochi club italiani ad aver fatto investimenti seri dal punto di vista del settore giovanile negli ultimi anni. È chiaro che lei parla di esordienti, di ragazzi molto giovani, è chiaro che il prodotto di quegli investimenti lo andremo a scoprire tra 2-3 anni, credo. La domanda è: perché si investe sul settore giovanile e poi non si valorizzano i giovani in un momento come questo, in cui, ripeto, credo che anche a lei, tifoso milanista, anche lei potrebbe accettare una politica di questo tipo. Non vinciamo niente, sappiamo che non correremo nemmeno nei sogni per alcun obiettivo, come di fatto è adesso. Però progettiamo una squadra per il futuro, magari un investimento ragionato e importante a stagione e quanto al resto tanta pazienza. Sbaglio? No, assolutamente. D'altronde io ero tifoso quando il Milan era in B, ci figuri se posso spaventarmi adesso. Appunto. Grazie Filippo. Grazie a voi. Grazie. Vincenzo, provincia di Firenze. Ehi. Buon pomeriggio. Si gufa a Napoli o si tifa a Napoli stasera? No, io da juventino tifo per l'Italia e anche per il Napoli, perché è nell'interesse di tutti. Sì. Però il mio discorso era rivolto a un altro, è che i settori giovanili, riallacciando così, italiani, a dire che fanno schifo è già del regalargliene molto, perché si pensa di risolvere la situazione del calcio italiano, e voi addetti ai lavori dovreste dirlo un po' di più, prendendo Conte per 2 anni senza pensare che la Germania, invece di prendere un fenomeno alla guida della nazionale, quando ha avuto i problemi, ha creato 200 istruttori di calcio. Lo so, ma Vincenzo, non siamo la Germania. non siamo la Germania. Ma è inevitabile che noi scompariremo dal punto di vista calcistico. Non c'è storia, perché non abbiamo le risorse economiche della Spagna, dove circa un miliardo di debito fra Real Madrid e Barcellona delle banche spagnole, che l'UE mantiene. In Italia questo non è possibile. La Francia ha dei cicli oramai consolidati, ogni 15 anni diventa leader. La Germania è organizzata. Il Sud America è Sud America. Ad esempio, Sud America, Argentina e Brasile sono paesi di esportatori di giocatori, e questo storicamente. Quello che penso io invece è che è facile dire come siamo messi male, piangerci addosso, eccetera. Io vorrei vedere più ragazzi italiani che vanno a cercare fortuna, a cercare una dimensione professionale completa all'estero. È un'impressione che invece ci confermiamo mammoni da questo punto di vista. I nostri ragazzi si confermano mammoni. Non posso giocare in prima squadra. Che disastro! Non mi fanno giocare settore giovanile. I settori giovanili sono scadenti. Allora vado a cercare magari fortuna in squadre di terza, quarta serie, eccetera. Meglio andare a giocare da titolare in Belgio. Meglio andare a giocare da titolare in Lussemburgo. Meglio misurarsi con campionati professionisti, qualunque essi siano. Tutti convocati. Un primato che sta per andare in soffitta, un record europeo che svanisce ed uno nuovo che arriva. È Gregorio Paltrinieri che scende sotto i 14:40. È la prima medaglia d'oro dell'Italia nel nuoto in vasca all'europeo di Debrecen. È un Gregorio Paltrinieri che entra di diritto nella storia. Di essermi comunque riconfermata campionessa d'Europa. Mi piace comunque averlo fatto qui in casa del mio idolo da bambina, Francisca, e quindi insomma sono molto contenta. Proprio sul mio tuffo avevo i piedi fuori e mi ha fatto perdere un po' la sensazione che avevo di solito, e poi non fu abbondante. Mi dispiace perché ci stava tutto, ero anche qualche punto avanti, però dai, sono contenta comunque. Federica Pellegrini, Tania Cagnotto, Europa amica dell'Italia in fondo, quarta nel medagliere nel nuoto, prima punti, terza nei tuffi. Magari i settori giovanili del calcio non funzionano benissimo, quelli del nuoto reggono. Stefano Arcobelli, inviato della Gazzetta dello Sport, ciao. Ciao a tutti. Mi sbaglio? Certo, è tutto bene. Eh? Sì, tutto ok, il nome è giusto. È giusto, cioè mi sembra che il settore giovanile del nuoto con Paltrinieri, allora, mi sembra che regga, no? Sì, guarda che appunto hai citato proprio Paltrinieri, hai fatto sentire proprio i momenti più emozionanti di questa spedizione a Berlino. È proprio Federica si allena al Centro Federale di Verona e Paltrinieri al Centro Federale di Ostia. Adesso noi, la federazione è una grande macchina organizzativa che si occupa dall'elite agli esordienti, quindi, però sicuramente ha fatto un lavoro importante proprio nella scrematura e nel valorizzare questi talenti che appunto poi inseriti in questi contesti di alta specializzazione riescono poi a produrre questi risultati. Certamente il campione al posto giusto, con l'allenatore giusto, poi porta a questo risultato. Sì, certamente. Probabilmente altri sport come l'atletica hanno altre dinamiche, altri altre diciamo tipologie di lavoro, perché spesso in questi giorni proprio ci hanno sempre fatto vedere questo confronto così un po' stridente tra atletica e nuoto. Ma sono sport diversi, Stefano, mi sembra difficile paragonare le mele con le pere. Difatti qui non si parla di dire l'atletica è un disastro, il nuoto è in alto, perché ricordiamoci che il nuoto esce con le ossa rotte alle Olimpiadi, zero medaglie. Ecco, probabilmente questo, gli ultimi due anni sono serviti ad analizzare cosa non è andato sia appunto all'Olimpiade di Londra che al Mondiale di Barcellona, e probabilmente con più umiltà e con il fatto che comunque gli europei, il livello degli europei è sicuramente inferiore, ha prodotto questo risultato assolutamente positivo, perché le medaglie, i personaggi, non solo Federica e Gregorio, ma anche possiamo citare la Castiglioni, che a 17 anni è una rivelazione. Certo. Poi c'è anche la prima medaglia in assoluto di Federico Turbini, della Caramignoli, cioè. No, ma per questo che dico, la sensazione è che dopo averle prese secche, come hai giustamente ricordato, ai mondiali e alle Olimpiadi, questi europei ci hanno dato fiducia, perché abbiamo la sensazione che si stia riproducendo comunque una generazione di buoni nuotatori, presto per dire campioni, però di buoni nuotatori. Sì, infatti, io ho apprezzato molto, spesso non condivido le idee del presidente Barelli, però apprezzo molto la prudenza con la quale hanno commentato questi risultati, che sicuramente danno grande fiducia e soprattutto ripagano il grande sforzo, il grande lavoro fatto tutto l'anno, diciamo in periferia, alla base, eccetera, eccetera. Però bisogna anche dimensionarli ad un contesto mondiale. Adesso questi risultati di quest'anno bisogna confrontarli sicuramente nel biennio più difficile, che sarà caratterizzato dai mondiali a sfondo olimpico, perché poi lì si comincerà a vedere quali sono le gerarchie, i rapporti di forza mondiali a Kazan il prossimo luglio, e poi ovviamente nella grande prova finale, che è l'Olimpiade, che veramente lì si vede il peso di una nazione. Certo. Stefano, la signorina Pellegrini come l'hai vista? E poi mi spieghi cosa sta succedendo con Luca, se è ancora suo allenatore, si separano, si allenano a distanza, cosa succede? Come l'hai vista e cosa succede? Guarda, io ricordo, l'ho intervistata più volte, Federica mi ha detto dopo Berlino tirerò una riga. La riga era relativa sia sul nome di Lucas. No, non è stato questo, innanzitutto sì, c'è dentro il discorso di Lucas, però fammi dire, cioè lei voleva avere la sensazione, cioè cercava delle diciamo delle risposte anche cronometriche e tecniche da questi europei, perché era il primo anno dopo l'anno sabbatico di Barcellona, dopo la delusione di Londra, in cui voleva verificare a che punto era. Allora io ti dico, il tempo di con cui ha vinto l'oro, che è un'impresa straordinaria, perché è la prima donna in Europa nella storia degli europei, in 100 anni di storia degli europei, che una nuotatrice vince 3 ore di seguito nei 200 metri. Sì. È il tempo della staffetta sempre decisiva per il titolo della 4x2, secondo me non l'hanno soddisfatta, secondo me. Però l'oro naturalmente copre tanto, dopodiché c'è stato anche il flop nei 400. Sì. Non li vuole fare. Non è un flop, però sicuramente essere quarta per una che è stata la primatista mondiale fino a un mese fa e perdere a Belmonte, che non è una specialista dei 400, sicuramente è stato un punto cruciale per arrivare a questa determinazione, che secondo me c'è una certa divergenza di idee tra Lucas, che invece dice per me Federica ha caratteristiche per poter avere più chance a Rio, portando due gare sicuramente se ne sbagli una e almeno una seconda chance, mentre invece se abbandoni 400 sbagli 200 finisci per non fare nient'altro. Quindi a questo punto questa famosa riga di cui ti dicevo, adesso dopo le vacanze capiremo, lei l'ha anche detto subito dopo la gara di domenica dei 400, dobbiamo parlare con Filippo, dobbiamo essere tutti d'accordo e allineati su cosa fare. Però dice, in questo momento non si capisce se deve prevalere la volontà, l'esigenza, il desiderio della campionessa o l'analisi tecnica di un allenatore che naturalmente da fuori vede quali sono le prospettive. Allora, la campionessa dice no, non basta, basta 400, l'allenatore dice no, devi crederci perché hai possibilità. Io sto dalla parte di chi deve nuotare, cioè sto dalla parte della Pellegrini. Se non sente questa gara è un po' difficile, se non è convinta lei stessa di questa distanza, di questo tipo di gara, mi sembra un accanimento inutile. Sì, però allora dovrebbe avere il coraggio, e quella è l'altra situazione anche lì psicologica molto, molto delicata, di dire: caro Filippo, non rompiamo una seconda volta, però certamente star qui a discutere se allenarsi in un certo modo, perché qui si tratta di allenare la resistenza e la velocità, per i 400 si tratta di allenare soltanto la velocità, perché è funzionale ai 200, perché i 200 saranno sempre più veloci a Rio. Sì. Grazie Stefano, grazie, buon lavoro. Niente, buon lavoro. Grazie Stefano Arcobelli, inviato della Gazzetta dello Sport. Fabio da Carrara al volo, buongiorno. Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Io volevo intervenire sul Milan. Sì. Sono stato anticipato da altri miei colleghi molto disperati. Volevo fare soltanto una domanda: ma come mai i giornalisti non riescono mai a fare a Gagliani una domanda su questa politica del Milan? Cioè, nessuno gli chiede mai nulla. Nessuno gli chiede, scusi? Nessuno gli chiede nulla della politica del Milan. Come mai questa politica così disperata, diciamo, dei prestiti? Vendono e non comprano. Beh, ma sono anni che al Milan dicono la squadra deve autofinanziarsi, però ripeto, è un po' difficile autofinanziarsi senza produrre giocatori. Quest'anno il Milan, questo Milan, che cosa aveva da mettere sul mercato per autofinanziarsi? Balotelli e l'ha venduto, De Sciglio e secondo me siamo lì, cioè se non è adesso sarà l'anno prossimo, e El Shaarawy, che è un giocatore totalmente da recuperare perché è un anno e mezzo che è fermo. Il resto che cosa vendi? Rami forse? Ci stanno pure provando. Ci sentiamo domani alle 2, grazie a Claudio Schiattone in redazione, Roberto Scaltritti in regia, ciao. Buongiorno, dottor Carlo.